Buona serata a tutti, ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Continuano i nostri speciali nelle serate del lunedì e del martedì in cui riproponiamo alcuni eventi, convegni, incontri che si sono svolti nel periodo recente nel nostro territorio diocesano. Arriviamo a pochi giorni prima di Natale, giovedì 22 dicembre scorso, la Camera di Commercio di Padova in collaborazione con Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, ha promosso il tradizionale incontro prenatalizio con la diocesi di Padova e le categorie economiche. Il tema del convegno: Padova 4.0, sostenibilità economica e dignità dell'aiuto, Padova e la carità. Il primo convegno legato a Padova 4.0, che è il progetto di sviluppo ideato e promosso dalla Camera di Commercio con Padova Promex per trasformare Padova e tutta la provincia in punto strategico dell'innovazione veneta e della sostenibilità sociale e ambientale. Torniamo a quella mattinata. La prima voce che vi proponiamo è quella del presidente della Camera di Commercio di Padova, Fernando Zilio. Grazie a tutti e alle autorità presenti, al nostro prefetto, al commissario, al questore, alle autorità militari, a tutte le autorità civili e a tutti voi ospiti qui in Camera di Commercio. Che cos'è Padova oggi e cosa dovrà essere Padova domani? Noi dobbiamo prendere più coraggio, più forza, credere più in noi stessi. La nostra città è una città straordinariamente forte. Abbiamo dati che ci danno coraggio. Ecco, per la prima volta mi sento di dire che abbiamo dati che ci incoraggiano. E insieme, però, grazie anche al progetto che Camera di Commercio, con i miei colleghi, molti dei quali sono già presenti, perché poi abbiamo Giunta e Consiglio, dovremmo oggi deliberare argomenti straordinariamente importanti per scrivere poi definitivamente quelle pagine bianche che abbiamo visto adesso. Oggi è una giornata storica per la Camera di Commercio, innanzitutto perché c'è il primo convegno all'interno di Padova 4.0. Sapete che Padova 4.0 è un progetto che durerà 6 mesi, ha una forma partecipata, abbiamo già un'infinità di progettualità arrivate che le stiamo valutando, quindi anche questo fa comprendere quanto Padova abbia bisogno di parlarsi, di incontrarsi, e la Camera di Commercio ha fatto questo. Abbiamo già 40-45 progetti che li stiamo già valutando, abbiamo già avuto, incontriamo il martedì con una commissione che è presieduta da Lamberto Toscani e dall'amico e collega vicepresidente Gelai, abbiamo già avuto circa 40-45 incontri diretti B2B con persone che ci vengono a fare proposte, che portano idee e soprattutto idee straordinarie e innovative. Padova è, come Camera di Commercio, una delle prime 10 Camere di Commercio italiane. Abbiamo ben 120.000 imprese e la cosa straordinaria è che quest'anno abbiamo avuto iscritti più 241 imprese. Siamo oggi al 9° posto in Italia, siamo la più grande Camera di Commercio veneta e abbiamo tutta l'intenzione di dialogare con colleghi veneti per far sì che l'aggregazione, come prevede la legge, avvenga in tempi brevi con altre camere di commercio simili alla nostra. Perde qualche punto, un 0,7, l'industria, però è anche vero che l'industria in questo momento sta vivendo un momento straordinariamente felice, perché un aumento di fatturato, un aumento di lavoro e un aumento di export. I servizi delle imprese aumentano di 1,6 punti, il servizio alle persone di 2,2, il commercio al dettaglio più 0,2%. Già questo è un dato positivo. Gli imprenditori a Padova sono 139.088 e sono meno rispetto al 2015 0,7. Gli imprenditori sono una cosa, le imprese sono un'altra, sono due cose diverse, sono i singoli, poi sono le società e quant'altro. Quindi evidentemente molti si erano iscritti perché avevano perso il posto di lavoro, ma si sono ricollocati evidentemente in altre realtà, quindi in altre società o in aziende. Le donne imprenditrici sono 37.000 830, questo è un dato meraviglioso e tra i più alti d'Italia. I giovani imprenditori sono 5.293, questo è un altro dato interessante che va sicuramente analizzato in positivo. Gli imprenditori extracomunitari sono 8.183 e sono pari al 5,9 del totale delle imprese padovane e non è cosa da trascurare, va analizzata con molta attenzione. Più 3,4 su base annua, quindi noi aumentiamo le imprese straniere di un 3,4 più su base annua. Gli imprenditori cinesi fanno la parte del leone, come si dice, adesso non so che anno sia in Cina, non mi ricordo, però insomma, più 2.311. L'industria manifatturiera risale sulle ali dell'export, produzione è più 3%, come si diceva prima, il fatturato è più 3,6%, gli ordini totali più 2%, gli ordini esteri più 6,7% e l'occupazione, dato molto sensibile per noi, ma anche per il rapporto, saluto il Presidente Finotti, con il quale abbiamo una forte collaborazione, gli occupati salgono del più 1%. E questo è un dato straordinario in questo territorio. Nel commercio al dettaglio, so che verrò contestato magari da Giordani o da qualche altro collega presente, perché come già sono molto attenti, però i dati sono questi. Fatturato più 1,4% del commercio, gli ordini meno 0,3%, quindi compriamo meno e usiamo più il magazzino, da bravi commercianti, e i prezzi di vendita sono a meno 0,1%, questo è un bene, e l'occupazione anche qui sale all'1,6% più. E questo è un altro dato estremamente importante. La provincia di Padova rimane una delle aree leader in Italia nella capacità di esportare prodotti, quindi anche qui un dato molto importante. Nella dinamica dell'export nel gennaio 2016 da gennaio a settembre 2016 è più 4,9%. Questo è un dato straordinario perché occupiamo il primo posto in regione. Quindi siamo, stranamente, perché ci confrontiamo con realtà come Verona, come Vicenza, come Treviso, Padova sta raggiungendo e superando queste tre province. I dati non mentono, sono dati del Centro Studi Unione del Camera di Commercio Venete e del nostro Centro Studi. Il peso dell'export padovano sul totale veneto è del 15,7% e a livello nazionale siamo al 13° posto. Il valore di esportazione padovano è di circa 7 miliardi. Il turismo sta andando discretamente bene, con punte anche qui di arrivi che superano il 1.250.000 presenze nel nostro territorio, per una totale di presenza totale di 3.485.000. Il credito e i depositi bancari salgono del più 3,9%, 21,9 miliardi. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché è un dato che, se da un lato valutiamo che abbiamo tutti i segni positivi, dall'altro rileviamo che il risparmio è alto perché c'è ancora paura e c'è ancora preoccupazione nel spendere il denaro. Gli impieghi bancari sono meno 3,9%, anche su questo dobbiamo essere stimolatori. Il credito alle famiglie invece è 9,1 miliardi più 2,8% nella nostra provincia. Il mercato del lavoro è in saldo positivo, quindi ancora una volta il nostro sforzo con diocesi, con fondazione, con comune di Padova, con la provincia di Padova, sta dando dei segnali positivi e soprattutto il fatto che rileviamo con i dati le imprese cominciano a vedere il segno più, produce più 8.070 assunzioni nel 2016, dal 1 gennaio a oggi, quindi occupati in più rispetto all'anno prima, 8.070, e guardate che sono 8.070, probabilmente 8.070 anche famiglie che stanno vivendo meglio nel nostro territorio. Però il rapporto negativo lo vediamo sulle assunzioni a tempo indeterminato, che stanno diminuendo di qualche punto. La cassa integrazione è positiva, nel senso che stanno ricorrendo meno le imprese alla cassa integrazione, e anche questo è un dato positivo. I lavoratori coinvolti in crisi aziendale, anche questo è positivo, perché diminuisce del 59,9%. Guarda che è un dato straordinario questo. I lavoratori coinvolti in crisi aziendali nella nostra provincia, e quindi è un dato forte, lo leggevo in questi giorni in due occasioni, le dichiarazioni del Presidente di Confindustria Finco, ha questo poi risultato. Oggi abbiamo il 59,9% in meno di crisi aziendali. E i lavoratori in mobilità, anche qui, diminuiscono del 37,6%. Quindi Padova si posiziona in una posizione straordinaria, quindi noi abbiamo un valore del 9,4 rispetto al 7,1 della nostra regione. E rispetto all'Italia siamo messi molto meglio, perché l'occupazione italiana è mediamente, il tasso di occupazione è all'11,9, quindi noi siamo molto, molto bassi. Il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro è stato ed è rifinanziato anche quest'anno con le forze che abbiamo, perché voi sapete tutti che noi abbiamo subito una drastica, un drastico ripensamento da parte del governo, perché abbiamo subito una riforma straordinariamente pesante che ci dà da un lato più competenze e dall'altra ci toglie invece le entrate. Quindi noi abbiamo in 50% di entrate in meno, e sfido qualunque azienda di trovarsi in queste condizioni e saper sopravvivere. Ci tagliano il 50% praticamente del fatturato. Però noi, questa Camera, lavorando già da diversi anni, e grazie a tutti i miei collaboratori, colleghi, al segretario generale, a tutti i dipendenti della Camera di Commercio, quest'anno riusciamo a fare un bilancio attivo e riusciamo anche a mettere a disposizione delle risorse, peraltro poi vedremo anche in che modo. Quindi, nonostante i tagli del governo, riusciamo a essere una delle poche Camere di Commercio che produrranno un bilancio attivo. Siamo stati chiamati in questi ultimo mese nel Brunei dall'OCSE come esempio mondiale. Permettete un po' di orgoglio, ogni tanto serve, perché abbiamo lavorato, credo, con tanto impegno, il segretario generale, la giunta, il consiglio, stimolati da tutti per andare verso un percorso rispettoso delle regole e soprattutto nell'interesse del sistema Padova, chiamati come esempio di Camera di Commercio mondiale. Quindi è stata una grande soddisfazione. Noi facciamo poca pubblicità, però questo oggi è il caso anche di ricordarlo. Purtroppo un italiano su quattro oggi è a rischio povertà, però va anche detto un po' meno in questa provincia, grazie al lavoro che tutti insieme stiamo facendo. La crisi economica si è portato via il 12% del valore della ricchezza italiana. Quindi ecco perché ancora di più oggi noi, che abbiamo responsabilità pubbliche, dobbiamo lavorare con impegno, con serietà, nel rispetto delle regole e nell'interesse comune. Proprio un anno fa, proprio durante questo momento di incontro col Vescovo, e che ringrazio il Vescovo perché si è trasformato questo incontro, l'anno scorso era il Vescovo che incontrava prima nella facoltà teologica negli anni passati, poi si è pensato di farlo in Camera di Commercio, il Vescovo incontrava il mondo economico e quindi ci faceva gli auguri con naturalmente le relazioni di ognuno di noi due, ma quest'anno si è pensato di fare il primo convegno all'interno del progetto 4.0 e il Vescovo lo ha accettato volentieri. Perché? Perché proprio l'anno scorso, lanciando il progetto 4.0, abbiamo spiegato che cos'era il progetto 4.0, quattro temi partendo da zero. Sta diventando magari noiosa la cosa, ma il quarto punto e diventa il convegno di oggi, che era il famoso Laudato Si. E parlando con il Vescovo e con Don Marco, il Vescovo proprio oggi voleva, e ci siamo trovati in varie occasioni, e ci teneva molto, voleva parlare di carità. Ancora oggi è ancora più importante parlare di carità, ma poi Don Marco ci dirà meglio. Il progetto dopo un anno è realtà, perché guardate, è già realtà per quanto riguarda l'Interporto, che proprio ieri abbiamo con l'assemblea straordinaria prorogato di altri 3 mesi l'aumento di capitale per dare la possibilità ai soci e alla Camera di Commercio di intervenire ulteriormente in Interporto. Cosa ha prodotto questo intervento? Tanto ringrazio il Presidente e tutti i collaboratori, perché anche l'Interporto fa parte di quelle eccellenze, dicevo, della Camera di Commercio prima, ma anche l'Interporto, perché è guidato ed è gestito in modo straordinariamente corretto e all'interno delle regole. L'abbiamo visto ieri, c'era anche il commissario Penta e abbiamo potuto constatare. Ed è un'eccellenza per il nostro territorio e sarà, secondo il mio punto di vista, il centro dello sviluppo prossimo del nostro territorio, e per questo ci crediamo. E quindi i primi soldi del 4.0 sono già entrati in Interporto, e oggi il Consiglio sarà chiamato a deliberare e votare il bilancio per il 2017, la previsione di bilancio 2017, con una posta chiara, i primi 10 milioni circa per l'intero progetto 4.0, e poi successivamente tutti gli altri che poi avremo a disposizione. Quindi il progetto 4.0 è realtà. Siamo usciti dalle partecipate per fare questo, con un atto di forte coraggio, unica Camera di Commercio italiana che ha avuto il coraggio, stimolato dai consiglieri, stimolato dai membri di giunta, abbiamo preso il coraggio, siamo usciti dalle partecipate. Non è stata una cosa semplice e facile, ma credo che il senso di responsabilità ci deve portare a scelte importanti, altrimenti quelle posizioni servivano solo al Presidente e a pochi altri. Portando invece qui i nostri, come dire, capitali che sono posizionati in altri luoghi e tentando di reinvestirli nel territorio, e il primo esempio non è l'Interporto, ma ne abbiamo degli altri nei prossimi tempi, farà sì che l'economia padovana abbia ancora di più quei numeri in positivo. La Fiera di Padova in questo anno ha trovato dei nuovi gestori, quindi voglio distinguere le due cose. La Fiera di Padova è un soggetto, come dire, da ripensare, nel senso che il socio pubblico è proprietario degli immobili. Per una scelta avvenuta tanti anni fa si è pensato di privatizzare la gestione che è all'interno della Fiera di Padova. Distinguiamo, altrimenti facciamo della confusione. All'interno di questa operazione la Fiera di Padova ha ceduto la gestione a una società francese. Noi come soci pubblici siamo rimasti dentro in minoranza con un 20%. In questa situazione, in questi anni, questa società non è riuscita a sviluppare il suo piano finanziario, il suo piano industriale. Abbiamo perso un'infinità di manifestazioni ed sono andati in crisi. Oggi noi abbiamo delle difficoltà, lo voglio chiarire, perché la legge Madia, articolo 5, ci dà delle condizioni molto chiare nelle partecipazioni. Quindi abbiamo fatto delle scelte ponderate e sappiamo cosa abbiamo fatto, non potevamo fare in modo diverso. Ma quello che conta è che oggi la fiera, quindi i gestori che noi abbiamo affidato la gestione della fiera, hanno subaffittato a un'altra società la gestione della fiera. Noi siamo felicissimi e vogliamo essere al loro fianco per sostenerli ed aiutarli, ma sappiano tutti che i denari pubblici non si possono dare ai privati. Quindi ognuno deve camminare con le proprie forze. Noi possiamo sostenere con altre azioni, perché si chiamano aiuti di Stato, altrimenti qualsiasi di voi che ha un'impresa potrebbe domani mattina venire in Camera di Commercio, alzare la manina e voler soldi. Non possiamo farlo. Quindi tutte le polemiche che si sentono e che si sono in questi giorni sentite non hanno fondamento. Noi, ripeto, come amministratori pubblici abbiamo il dovere di rispettare le regole, altrimenti rischiamo di trovarci in una totale confusione e fare della nostra mission un danno certo, e quindi dobbiamo lavorare con questi criteri. Abbiamo avuto in queste due ultime settimane l'ambasciatore ucraino, che peraltro, lo dico con un po' di preoccupazione, potrebbe essere smentito, ma proprio qua dentro l'ambasciatore ucraino ha promesso davanti alle TV che i quadri famosi di Castelvecchio sarebbero ritornati. È stata una bella notizia saputa per primi qui a Padova, e poi ieri si sono concretizzate anche queste cose. E quindi Padova è sempre in qualche modo al centro dell'azione. Abbiamo avuto l'ambasciatore colombiano e abbiamo rapporti unici con Cuba, che ci danno grande soddisfazione. C'è stato lo stesso ministro Calenda che ha confermato i nostri rapporti con Cuba. Abbiamo resistito con forza e con particolare difficoltà ad una riforma epocale della Camera di Commercio, ma io sono convinto che quella riforma era necessaria, perché porterà le Camere di Commercio ad essere più attente a come distribuiscono, spendono e gestiscono nel territorio i soldi delle loro imprese. Quindi per questa ragione noi mettiamo i famosi, ripeto, in questo preventivo 2017, i primi 8-10 milioni a supporto del progetto Padova 1.0, ma voglio spiegare cosa servono questi soldi. Non servono a una distribuzione a pioggia del denaro, ma sono soldi che dovranno andare a progetti, quindi sono fondi della Camera, sono capitale della Camera di Commercio, che devono andare a capitale che poi deve diventare un moltiplicatore per l'interesse del territorio. Pensiamo convintamente alle fusioni delle Camere di Commercio, ma purtroppo io ragiono in questo modo, altri colleghi per il momento sono ancora resistenti, ma io ci credo convintamente e porterò avanti questa idea. Ma nonostante i dati positivi che noi abbiamo sentito prima, non possiamo abbassare il livello di preoccupazione, perché intorno a noi abbiamo molto da fare e abbiamo molto da lavorare. E il fondo di solidarietà questo vuole essere. La città è ancora divisa rispetto al giorno dell'entrata del nostro vescovo. Quando è entrato il nostro vescovo, io mi sono permesso di dire: Monsignor Cipolla, Don Claudio, noi ci aiuti, perché noi alla mattina entriamo nei nostri luoghi pubblici, entriamo, ci chiudiamo dentro, mi ricordo più o meno ho detto queste parole, ci chiudiamo dentro, chiudiamo i portoni, chiudiamo anche le imposte e non dialoghiamo più con nessuno. È arrivato il momento che gli enti pubblici trovino la quadra, si parlino, lo ha stimolato anche il Vescovo in più occasioni, perché solo così potremo immaginare di scrivere quelle pagine bianche che mancano dal 17 in poi, altrimenti torneremo a chiuderci un'altra volta dentro le nostre case. Con l'università abbiamo iniziato questo rapporto e ringrazio il Procuratore Dughiero per la presenza, perché con l'università stiamo facendo un lavoro straordinario, a mio avviso. Sono successe delle cose terribili in questo territorio in questi ultimi due anni. Le banche, che hanno massacrato, più ancora che le imprese, hanno massacrato le famiglie e i risparmiatori. Questo è un danno quasi irreparabile, ma dovremo tutti insieme trovare le forze per aumentare la capacità del PIL, lo stanno dimostrando gli industriali con i dati di questi giorni, per aumentare il PIL, perché solo attraverso questo meccanismo potremo ridare coraggio alle famiglie e alle persone che hanno perso i loro risparmi. E quando tu perdi il risparmio, perdi la fiducia nella vita e nel proseguire della propria vita. La città è stimolata alla paura e alla divisione. Noi dobbiamo lavorare perché abbiamo responsabilità pubblica, perché la città non sia stimolata alla paura e alla divisione, ma stimolata a crescere, a dialogare, a confrontarsi. E oggi trattiamo all'interno del progetto 4.0 il tema numero 4, Laudato Si. Sarà il primo di una serie di altri tre convegni che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi. E quindi il tema della carità. E quindi grazie a tutti e soprattutto a Monsignor Cipolla per aver creduto in questo rapporto con la Camera di Commercio che deve diventare sempre più forte, a mio avviso. Voglio dire solo che il giorno della Madonna di Noli, il nostro Vescovo, in piazza, ha detto queste parole, che mi sono rimaste nella mia testa: la costruzione di una comunità pacificata parte anche dall'uso che facciamo delle parole, dal rispetto delle idee, da quando le nostre parole sono capaci di esaltare sempre la dignità di ogni persona e di non offendere, non umiliare, non giudicare, non discriminare. Io credo che queste parole le dobbiamo usare sempre e costantemente. Usiamo le parole senza offenderci. Confrontiamoci tutti i giorni, ma lavoriamo per il bene comune, non per il bene nostro e per i nostri interessi personali. Io questo ho fatto dal primo giorno che sono entrato in questa Camera, nessuno può dire il contrario, perché io faccio un lavoro che nulla ha a che vedere con gli interessi che girano all'interno di questo sistema. Padova da secoli ha scritto pagine straordinarie, ha aperto le porte a gente che veniva da fuori, che del loro passaggio possiamo andare fieri ancora oggi, due per tutti, Galileo e Antonio. Ma la sfida sono le pagine da scrivere, che sono gli anni che sono e che dovranno essere gli anni che abbiamo davanti. Quindi auguro a tutti voi un buon Natale a tutti e a tutte le persone che tutti noi amiamo. Grazie. Era Fernando Zilio, presidente della Camera di Commercio, ha fatto il punto sullo stato di salute dell'economia provinciale di Padova, illustrando anche questo progetto Padova 4.0 di cui si è parlato poco prima di Natale. Sentiamo anche Flavio Zelco, presidente dell'UCID Padova, Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti. Quindi rinnovo i ringraziamenti e i saluti a tutte le autorità ed ospiti che ci troviamo per rinnovare anche quest'anno l'incontro con il Vescovo, a cui ovviamente va il nostro augurio di rimettersi presto. Questo incontro è un'iniziativa che è nata oltre 10 anni fa, per iniziativa dell'UCID, e devo dire la verità che sono particolarmente contento che da alcuni anni, grazie alla sensibilità del Presidente Zilio, si sia incardinata in questa sede naturale del mondo economico e addirittura quest'anno abbia fatto un salto di qualità ulteriore, essendo una pietra fondante di quello che è questo bel percorso che è stato delineato dal Presidente Zilio. L'appuntamento annuale con il Vescovo è sempre stato un momento particolarmente atteso, perché è uno dei pochi luoghi di riflessione condivisa che vedono insieme quasi tutte le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. Non una semplice occasione per scambiarsi gli auguri, ma una mattinata da cui uscire con un bagaglio di stimoli, provocazioni, proposte concrete per lavorare insieme per il bene comune. L'incontro di oggi è un'occasione per riflettere sulle problematiche dell'inclusione della parte più debole della società. Mi piace il titolo Sostenibilità economica e dignità dell'aiuto, Padova e la carità, perché è un'altra pietra del percorso che noi stiamo facendo quest'anno come UCID, che è appunto dedicato alla dignità della persona nelle sue varie sfaccettature. E non era, quando abbiamo definito questo percorso, non avevamo idea di questo sviluppo che avrebbe avuto l'incontro. I fenomeni di esclusione sociale e di incremento delle disuguaglianze che vediamo crescere intorno a noi incidono profondamente su tutti gli aspetti del tessuto economico e dovrebbero essere in cima alle preoccupazioni non solo di chi opera nel mondo dell'associazionismo e del welfare, ma anche di chi ha la responsabilità di guidare un'impresa o un'associazione di rappresentanza. Per dare un ulteriore apporto in questa direzione abbiamo raccolto il suggerimento del nostro consulente ecclesiastico Don Marco Cagol, da lunghi anni nostro consulente per fortuna, e abbiamo provato a mettere insieme alcune voci per cercare di offrire un contributo nuovo. Quindi, accanto alle riflessioni di imprenditori e dirigenti soci UCID, abbiamo raccolto quello dei rappresentanti di alcune associazioni di categoria. Non mancano analisi che fotografano il panorama socio-economico padovano e veneto, e il presidente Zilio ne ha appena dato un'ampia disamina. Ma con questo dossier che potete trovare fuori sul tavolo abbiamo voluto offrire una lettura del nostro territorio che possa aiutarci a decifrare con chiavi diverse i dati del quadro macroeconomico. Lo spaccato che ne esce è un territorio colpito dalla crisi ma ricco di potenzialità tali da poter diventare produttore di bene comune. Il Vescovo Claudio più volte ha richiamato la città sul tema del superamento dei conflitti, un impegno morale che è, a mio avviso, anche l'unica strada concreta per rispondere alle sfide che ci troviamo di fronte, sfide che possono essere solo superate con un lavoro di squadra per quanto faticoso. Cito un passo della nostra pubblicazione. All'imprenditore si pone la sfida, al territorio e alle istituzioni il compito di non ostacolarlo. Nessuno degli stakeholders territoriali può sentirsi escluso dalla responsabilità di contribuire al sostegno dello sviluppo industriale, a partire dall'università a cui è affidato il compito di formare la classe dirigente che potrebbe essere motore della sfida manageriale, agli istituti di credito, un tempo florido asset provinciale e regionale, che devono tornare a occuparsi di impieghi imprenditoriali e investimenti produttivi, voltando rapidamente pagina. Ma non possiamo dimenticare il tema della legalità. Il rapporto Mafie Liquide in Veneto, proposto da Libera e Union Camere, propone uno spaccato a dir poco preoccupante. Il dilagare della corruzione e la comparsa anche nel nostro Veneto di fenomeni di stampo mafioso hanno a che fare direttamente con la questione dell'inclusione sociale. Perché, come spiega in modo chiaro il rapporto, quando una società civile è più debole e segnata dalle disuguaglianze, si aprono brecce pericolose. Un lavoro di squadra, quindi, che deve saper guardare al tema dell'inclusione non come una questione marginale, ma come uno dei temi cruciali. Se non ci poniamo seriamente questa questione, ogni ricetta per il rilancio del territorio rischia di rilevarsi evanescente o fallimentare. Per riprendere un altro passaggio significativo di una delle riflessioni da noi proposte, chi abita il territorio padovano deve sapere che se una parte della popolazione vive nel disagio, prima o poi il problema sarà della collettività e quindi anche suo. Occorre giocare d'anticipo, monitorando il territorio per individuare sacche o trend di deterioramento sociale. Il bene comune è un obiettivo di tutti che va perseguito con perseveranza e convinzione. Grazie. Grazie. Volevo, visto il tema, un secondo solo che faccio un intervento rapidissimo. Volevo, tra i ragionamenti fatti prima, visto che è stato toccato l'argomento della legalità, noi qui abbiamo fatto una serie di incontri in provincia e qui in Camera di Commercio. Voi sapete che abbiamo l'ufficio Libera, l'ufficio Ascolto, assieme a Libera e Avviso Pubblico, e anch'io voglio far, come dire, presente che le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio potrebbero esserci e dobbiamo alzare, come dire, l'attenzione, perché in un momento di crisi ci sono situazioni pesanti. Insieme tutti però, e abbiamo fatto un convegno, l'ultimo convegno, che diceva con l'Università di Padova, che rilevava una cosa, dice: qualcuno ha voluto mettere in difficoltà i corpi intermedi. Perché? Perché al posto di voleva sostituirsi i corpi intermedi e far entrare la illegalità e quindi le organizzazioni mafiose. Ecco, questo qui non dobbiamo permetterlo. So che i corpi intermedi nel nostro territorio sono corpi intermedi sani e quindi dobbiamo insieme lavorare perché questo in questo territorio non avvenga. Tutti insieme, quindi fare massa critica su questo, perché i segnali che noi abbiamo non sono incoraggianti. Però dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine per quello che fanno, perché su questo fanno molto e lo sappiamo. E quindi grazie anche per tutto il vostro lavoro. Grazie. E dopo l'intervento del presidente dell'UCID Padova, Flavio Zelco, il tema della carità in chiave storica è stato affrontato dal giornalista Francesco Iori nell'intervento Le azioni di carità divenute opere di giustizia nella storia della città di Padova. Cercherò comunque di mettere un po' in comune con voi delle idee, dei pensieri, cominciando da una constatazione che anche le città hanno un'anima. E l'anima delle città è rivelata dai loro miti fondanti, anche se sono leggende, ma proprio hanno questo compito. Ora, Padova è una piccola città, oggettivamente. Non possiamo vantarci di miti come Atene, legati a divinità, peraltro specchio di tutti i peggiori vizi e difetti dell'uomo, né possiamo vantare miti come quelli di Roma, legati peraltro a una lotta fratricida che si risolve addirittura in un assassinio. Abbiamo un mito molto più modesto, ma anche molto più attuale e molto più significativo proprio di quello di cui stiamo discutendo oggi, e che vede Padova fondata da un profugo, fuggito da una delle più sanguinose guerre in Medio Oriente, è arrivato qui attraverso un viaggio in mare, certamente non facile. E questo dà l'impronta alla città, e perché ci dice e ci spiega anche come mai Padova, come è emerso molto bene dall'intervento del presidente Zilio, sia stata e sia, al di là delle narrazioni, una città accogliente. Lo è sempre stata, e abbiamo visto alcuni dei personaggi che ci sono stati proposti, che hanno tra loro una caratteristica comune. Sono venuti a Padova e a Padova hanno dato il meglio di sé. Erano geni comunque, perché non si può negare che un Giotto, un Galileo non fossero dei geni, ma come mai qui hanno dato il meglio? Per un motivo molto semplice, perché qui hanno trovato un ambiente accogliente, hanno trovato un terreno fertile. Questo ce lo dicono oggi gli esperti, che per attirare investimenti occorre l'economia, certo, ma occorre anche un ambiente favorevole, un ambiente piacevole, un ambiente accogliente. E quindi questo è un po' uno specchio di Padova. Ma c'è un altro aspetto sempre storico, ed è quello dell'università. L'Università di Padova, come sapete, nasce da una secessione di docenti e studenti bolognesi venuti via da Bologna perché lì il potere si faceva troppo ingombrante. Pochi sanno che prima di venire a Padova in realtà fanno un passaggio di qualche anno per Vicenza, dove peraltro non si trovano molto bene, il che giustifica anche un po' quella ruggine che c'è tra padovani e vicentini. Vengono qui e qui trovano piena accoglienza nelle autorità, quindi a cominciare dal podestà, dall'equivalente del sindaco dell'epoca, e danno vita a quell'università che ha il più bel motto di tutte le università del mondo, perché la parola libertas è garantita a tutti, la libertà garantita a tutti è una delle più grandi conquiste che ci possano essere. Anche qui è segno di un ambiente accogliente che rimarrà tale per secoli, tant'è che a Padova arriveranno da fuori non solo autorevolissimi docenti, ma anche grandi studenti che diventeranno famosi a loro volta. Cito solo un Vesalio, che si laurea a 23 anni e l'anno dopo è già in cattedra. Non oso pensare alla sorte dei nostri laureati di oggi. Ecco, allora, voglio dire, in questo ambiente, in questo contesto, e visto il tema di cui parliamo oggi, la Chiesa ha indubbiamente avuto un ruolo di primo piano. però non una chiesa a sé stante, ma una chiesa che ha costantemente legato la fede con la vita. E qui faccio un esempio iniziale. Nell'anno 1000, gli anni della ricostruzione dopo le devastazioni delle invasioni barbariche, la vita si riorganizza intorno alle pievi, di cui è ancora ricco il nostro territorio. E queste pievi, attenzione, non sono solo il luogo dove si va a pregare, ma sono anche il luogo dove i capifamiglia si trovano per concordare le regole del vivere insieme. E questo è un altro fatto indicativo che dimostra il legame proprio primigenio, vorrei dire, tra la fede e la vita. Penso alla straordinaria opera nel nostro territorio dei Benedettini. Pensate che già nell'XI secolo a Padova, nel Padovano, ci sono 16 monasteri. Questi Benedettini che non solo invitano alla orazione, alla preghiera, ma anche, secondo la regola del loro fondatore, al lavoro, tant'è che loro bonificano i territori e poi insegnano i contadini a come coltivare la terra, insegnano come costruire le case, le masserie sono uno straordinario esempio delle tecniche insegnate dai Benedettini. Quindi voglio dire, c'è sempre stato un patto tacito tra istituzioni, religione e società che ha contribuito a rinsaldare un fortissimo legame civile che si è tradotto in opere. Pensate al Monte di Pietà, che nasce alla fine del 400 a favore delle persone bisognose, a proposito di banche, ma poi nell'800 il Veneto ha il primato della nascita in Italia delle casse di risparmio, delle banche popolari, delle casse rurali, cose che evidentemente alcuni o troppi si sono dimenticati oggi. Ma un'altra straordinario patrimonio di Padova è la nascita di due modernissimi ospedali nell'arco di meno di 4 secoli, veramente straordinari in rapporto all'epoca, perché sono tutti e due fortemente innovativi, fin dall'ospedale francescano, che capovolge la logica. Prima erano ospizi e diventano invece ospedali per la cura della persona. Ma è straordinario come nella loro realizzazione, sia quello del 400 sia quello di fine 700, ci sia un concorso tra la Chiesa, il potere civile, in entrambi i casi anche la regione di allora, non state a fare pensieri maliziosi, e l'università. L'università, e questo è importantissimo, perché già nel 400 per la prima volta l'università porta gli studenti di medicina in corsia a vedere i malati. E l'ospedale di fine 700 è straordinariamente moderno in rapporto all'epoca. Ecco, faccio solo questi esempi, potrei portarne molti altri, per testimoniare di un ambiente tipicamente padovano, sempre di questa Padova accogliente, in cui, torno a dire, la Chiesa ha indubbiamente avuto un ruolo di primo piano anche nel sensibilizzare le persone attraverso una rete di sacerdoti eccezionale, grazie soprattutto all'impronta di Barbarigo, nella seconda metà del 600, del sacerdote per il quale conta moltissimo la formazione, ma questa formazione va calata a servizio delle persone. E questo abbiamo delle figure straordinarie, penso solo nell'Ottocento a Monsignor Candeo che a Mestrino ricordano ancora con straordinario affetto, o a Don Rizzo che fa il catechismo dei contadini, ma questo catechismo non insegna i 10 comandamenti, fatto in collaborazione con l'università insegna a coltivare i campi, con la tecnica della domanda e risposta proprio del catechismo. Ecco questo, vi cito solo per farmi capire su questo punto. E nel 1859 si tiene in Veneto una sorta di concilio, e da questo concilio esce un invito, un'esortazione ai parroci, che dice testualmente così: in nome di Dio tutti i parroci si sentono obbligati a conoscere uno per uno i propri fedeli. E questa è una cosa straordinaria, cioè di guardare la gente all'altezza degli occhi e di cercare di vederli per come sono, non per come si vorrebbe che fossero, parlare la lingua del popolo. Ma abbiamo un esempio straordinario, se volete, nella seconda metà dell'Ottocento, a Tombolo, dove c'è un giovane cappellano che veniva definito dai suoi parrocchiani moto perpetuo. Ed era Giuseppe Sarto, il futuro Papa Pio X, che non solo si dava da fare sul piano pastorale, ma per esempio teneva delle lezioni in canonica per insegnare a leggere e scrivere, che è il primo passo per la dignità umana, come ci ha insegnato giustamente Don Milani. Poi c'è la grandissima figura del Vescovo Pellizzo, che arriva qui all'inizio del Novecento, un friulano tosto, tanto che veniva chiamato Monsignor Ossoduro, e sperimenta subito di che aria tiri, perché i socialisti dell'epoca lo prendono a sassate, ma non se ne cura molto. Allora lui rilancia, addirittura sfidando, tra virgolette, il non expedit Vaticano, rilancia l'impegno politico, nel senso di impegno civile. E io voglio dirvi questa frase perché è di enorme attualità oggi in questa Padova. Nessuno, a meno di casi eccezionali, si tenga estraneo alla vita pubblica, poiché ogni cittadino, ricco o povero, dotto o scarsamente istruito, ha dei diritti e dei doveri verso il comune, la provincia, lo Stato, e li deve esercitare. Queste sono parole che ritroveremo pari pari poi in De Gasperi, in un formidabile discorso alla vigilia del referendum Monarchia Repubblica. E poi le iniziative esemplari nel secolo ormai scorso, ma che è dietro l'angolo, che dobbiamo a Monsignor Bortignon. Pensate al QAM, per dire una cosa di attualità, o pensate all'Opera della Provvidenza, che si fa carico di persone delle quali colpevolmente lo Stato e i pubblici poteri non si trascurano. E non a caso, se voi passate davanti all'Opera della Provvidenza, vedete questa grande scritta Caritas cum fide, perché, come insegnava Giacomo, la fede senza le opere è morta. E quella è la testimonianza più bella, giusto che stiamo parlando di dignità e carità. Ho tenuto per ultimo una figura più importante di tutte, non per dimenticanza, ma proprio perché è la più importante, ed è Antonio. Ma voi pensate, la straordinaria vicenda di questo fraticello malmesso fisicamente, malconcio, che sta a Padova poco più di un anno, e in un poco più di un anno riesce ad ottenere una tale popolarità, a scuotere talmente gli animi, da diventare forse il primo esempio di santo subito della storia. Verrà proclamato santo un anno dopo la sua morte. Ora, chi era? Ecco, la cosa straordinaria è che Padova, la chiesa padovana, lo sceglie come patrono. E pensate, va a prendere come patrono chi? Un immigrato, notoriamente un immigrato. E scartando delle scelte locali pure grece, c'era a disposizione un prosdocimo, un primo vescovo, due protomartiri del IV secolo come Daniele e Giustina, no? E forse qualcuno già all'epoca si sarà irritato e avrà detto no, primi padovani, ma non l'hanno ascoltato. Allora, però Antonio è protagonista del miracolo, a tanti miracoli vengono attribuiti, ma il miracolo forse più significativo di tutti è di aver tenuto insieme la dimensione religiosa con quella civile. Tant'è che è lui che convince le autorità dell'epoca a cambiare addirittura la legislazione in favore dei debitori insolventi. Quindi ha tenuto insieme queste due dimensioni ed è diventato il simbolo di una sorta di religione civile di un'intera comunità. In una sua biografia, un suo biografo anonimo dei primi tempi dice: sapeva ricondurre a pace fraterna i discordi. Ed è le parole che ci ha detto prima il Presidente sulla Padova della Discordia. Ci vorrebbe un altro Antonio, o forse ce ne vorrebbero una decina. E io però, ecco, non voglio fermarmi e fare una pura rievocazione storica, perché se no parliamo di archeologia e rimpiangiamo i vecchi tempi andati. E voglio dire che la Padova di oggi è quella che ha esattamente descritto il Presidente, ma è anche un'altra Padova, una Padova sommersa. Ho letto nei giorni scorsi che a Padova, provincia, ci sono oltre 7.000 associazioni che fanno volontariato e di queste oltre 2.000 sono in città. Io trovo che questo sia un patrimonio eccezionale, una risorsa, una miniera alla quale dobbiamo assolutamente attingere. Ed è un patrimonio sommerso, sono migliaia di persone che affrontano con grande dignità e coraggio le difficoltà della vita quotidiana, a partire da questa crisi di cui tutti sappiamo l'incidenza. Allora, e qui vengo un po' al punto centrale, queste persone sono invisibili. Questa Padova, che è maggioritaria, è invisibile. E quindi io qui devo fare un'autocritica. E per questo dicevo che è un po' altro che estemporanea la mia presenza. Non c'entra proprio. Perché questo dipende da una narrazione distorta della città, che viene fatta dal sistema dei media. Assolutamente, su questo bisogna essere chiari, non solo a Padova chiaramente, purtroppo Questo è oggi il clima. Però lasciatemi dire che c'è anche una corresponsabilità in questo, ed è la corresponsabilità di una classe dirigente, non solo politica, perché i media tutto sommato registrano quello che dicono queste persone. Certo, non andiamo in cerca delle persone che avrebbero molto da dire, però registriamo, non ce le inventiamo, queste polemiche molto squallide e meschine che sentiamo ogni giorno. E qui c'è un mix perfido di ferocia del linguaggio, c'è un linguaggio molto aggressivo, ha detto bene il Vescovo in quell'esortazione dell'8 dicembre, del tiro a segno sulle idee altrui, e del difendere ad oltranza le proprie posizioni, di illudersi di che ciascuno abbia in tasca la soluzione miracolistica ai problemi, ma quando poi viene messo alla prova il bluff cade immediatamente, perché non può esserci, non esiste. Non esiste persona nella storia che da sola abbia risolto i problemi. Chi ci ha anche provato sono finiti tutti regolarmente male. Allora noi viviamo purtroppo all'interno di una sorta di circolo autoreferenziale che dobbiamo rompere se vogliamo recuperare un rapporto con la città e restituirle un'anima. Dobbiamo arrivare ad una narrazione alternativa di Padova, altrimenti si crea inevitabilmente una sorta di adesione a queste cose che vengono sparate sulle locandine dei giornali, sui titoli dei telegiornali, e che però rappresentano un piccolo spicchio di realtà, trascurando tutta la grande realtà positiva. Ma come si fa? Ecco, io credo che dobbiamo cominciare a rompere le appartenenze di cui tutti siamo inevitabilmente prigionieri e tornare a mettere al centro la persona, ma partendo dagli ultimi, che sono sempre di più. Questo è il problema. Noi abbiamo sentito e purtroppo registrato in maniera anche molto critica in questi mesi tonnellate di parole, spesso a sproposito, sulla Costituzione. Tanta passione per la Costituzione, non abbiamo sentito una sola parola da nessuno sul fatto che quello che è per me l'articolo cardine della Costituzione, l'articolo 3, rimane non solo disatteso ma peggiora. Ed è l'articolo che fa carico alla Repubblica di ridurre le disuguaglianze. E invece le disuguaglianze stanno aumentando. Questo è una violazione della Costituzione, su cui nessuno dice niente. Qui suona molto attuale il messaggio di Papa Francesco. E questo bellissimo invito che lui fa alla Chiesa di essere ospedale da campo è un invito che in realtà non deve riguardare solo la Chiesa, ma tutte le persone. Essere ospedale da campo non solo per curare gli altri, ma anche noi stessi, che siamo oggi tutti prigionieri di un orizzonte troppo basso. Riscoprire il domani, il progetto, perché le vere classi dirigenti, politiche, economiche di qualsiasi tipo, non lavorano per questa sera e neanche per domani mattina, ma per dopodomani. Creano le premesse perché le generazioni future possano vivere meglio. E questo è un fondamento. Quindi riscoprire il domani, magari agganciandolo a un concetto oggi che va tanto di moda, quello di smart city. Bellissimo concetto, ma che rischia di rimanere astratto se noi dimentichiamo che la prima infrastruttura vera di una smart city non sono le pietre, non sono le opere, ma sono i cittadini. E quindi se non restituiamo, lavoriamo per restituire un senso di cittadinanza. E qui io vorrei di nuovo rifarmi a Sant'Antonio, e a un miracolo di Sant'Antonio di cui mi parlava padre Enzo Poiana, cioè la capacità di far ritrovare le cose scomparse, è una cosa che si attribuisce al santo. Beh, io vorrei che, spero che ci aiuti a ritrovare quella solidarietà, quell'accoglienza che ci siamo dimenticati e che fa sì che oggi, come diceva il Presidente, siamo una città divisa, perché questo è carità, carità è giustizia, se non è giustizia è elemosina. E l'elemosina non serve. Non serve a risolvere i problemi, serve a dare qualche cerotto. È giustizia perché una vera democrazia include. Se non include, se esclude, non è democrazia. E su questo abbiamo tutti una grandissima autocritica da fare. Ora, vorrei chiudere così, quindi esortando una capacità di vedere oltre la facciata. Ed è un tema che si lega molto a questo momento di accostamento, di vigilia di Natale. Perché Cristo nasce al buio, non dimentichiamocelo. Nasce in una grotta perché per loro non c'era posto, come dice il Vangeli, questa frase per loro non c'era posto è straordinariamente attuale, quanto la sentiamo ripetere oggi, anche da cattolici appena usciti dalla chiesa dove si sono dati il segno della pace durante la messa, purtroppo, e la famiglia è costretta a diventare immediatamente profuga, come mostra uno stupendo quadro di Renato Guttuso sulla Natività, quadro dipinto da un comunista ateo, a proposito, Filippo, di sensibilità diffuse, eppure diventa una storia di salvezza. Io non oso pensare a come racconterebbero oggi i mass media la nascita di Cristo, cioè sicuramente il Padre Eterno nella sua infinita saggezza ha mandato il figlio molto prima che ci fosse il sistema dei media, perché voi pensate le paginate e i salotti televisivi sui le congiure di Palazzo da Erode, sui rapporti con Roma, sulle falsità del censimento, tutte queste cose su cui perdiamo tempo e spazio inutilmente. E certamente non riusciremo ad accorgerci che qualcosa sta nascendo al buio. Ecco, io credo che qui siamo tutti un po' indietro, cioè la capacità, recuperare la capacità di vedere ciò che sta nascendo al buio. In me, dentro la società, negli interstizi della società, sta sicuramente nascendo un mondo migliore, perché ci sono migliaia e migliaia di persone, anche in questa Padova, ho citato prima l'esempio del volontariato, che si stanno dando da fare perché le cose non vadano a rotoli, ma possano migliorare, e ci riusciranno sicuramente, alla faccia di tutti quelli che cercano di impedirlo con le loro meschine piccinerie. Ora, questo però, voglio dire, chiudere con questa riflessione, non è un compito della Chiesa soltanto, non è un compito dei cattolici. Giustamente questo Papa, scardinando anche qui consuetudini cristallizzate, ingessate, ci richiama a questo. È un compito che ci chiama in causa tutti, che chiama in causa chi crede in qualsiasi Dio creda, che chiama in causa chi non crede e che chiama in causa quella categoria enorme di persone che il cardinale Tagle, non a caso non un europeo, ha definito in una maniera stupenda, tutti quelli che non nominano mai Dio ma nemmeno lo dimenticano. Ecco, quindi c'è un lavoro comune per garantire a tutti, ma davvero a tutti, il diritto di non essere meno di un uomo, e questo diritto invece è troppo calpestato, molto più oggi che in passato. In questo momento nel mondo ci sono 62 milioni di profughi, molto di più di quelli che ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una responsabilità collettiva di cui dobbiamo farci carico. E voglio chiudere anch'io con una poesia, e anch'io mi affido a, non so se fosse Mangiapreti, ma sicuramente era ateo dichiarato, un grandissimo artista come Bertolt Brecht, che ha scritto una poesia di poche righe che si intitola Natale dei poveri, e credo che faccia sintesi di tutto quello che ho cercato di trasmettervi. Oggi siamo seduti alla vigilia di Natale, noi gente misera, in una gelida stanzetta. Il vento corre di fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi. Volgi lo sguardo, perché tu ci sei davvero necessario. Grazie. Francesco Iori, editorialista del Mattino di Padova, che ha raccontato in chiave storica su Padova, appunto sulla città e il suo territorio, il tema della carità. Ora la voce di Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, che ha presentato la mappatura delle risorse di Padova per il contrasto alla povertà, il progetto Cantieri di Carità e Giustizia. Francesco Iori ha detto: dobbiamo stare attenti di non essere sedati dalla nostra storia, appagati dalla storia della città, e quindi in qualche modo di fare archeologia delle forme sociali che ci hanno preceduto e poi chiuderci nell'anatomia patologica dei problemi che stiamo vivendo. Questo non è futuro. Come la città è riuscita nella sua storia a sviluppare nuove forme di essere città, società, perché non può farlo anche oggi? Perché non può capire come nei prossimi 10 anni si può sviluppare qualcosa di nuovo, ma non in termini di risposta? Poi vedremo come la città è attrezzata per affrontare i problemi della povertà, ma se questa risposta, mentre lotti contro la povertà, diventa forma sociale. L'ospedale non è stato un'opera, è stata una forma sociale. Oggi in Italia dà lavoro la cura della salute a 1.200.000 persone. Cioè le nuove forme sociali, se lo sono veramente, nascono al buio, non sanno cosa diventeranno, ma poi diventano sviluppo economico e sociale. Sono forme sociali. Chi ha inventato le scuole professionali non sapeva che stava facendo quello, stava insegnando un lavoro a dei ragazzi. E potremmo fare un lungo esempio che ha dato forma alla nostra e ad altre città da parte di chi ha investito sui bisogni umani fondamentali. Quindi attenzione, lotta alla povertà non è occuparci di una riserva indiana di persone bisognose di aiuto, e di far tesoro di questo problema per capire come sviluppi qualcosa di nuovo che possa servire. Fino a qualche anno fa, condividere un ufficio o condividere una bicicletta era triste, perché sembrava di condividere la miseria. Oggi questa roba si chiama car sharing, co-working, cioè condivido un problema e condivido una soluzione. E i giovani si stanno insegnando come innovare i modi di essere impresa, lavoratori, sviluppo sociale. Certo che se tu prendi i problemi al limite, e la povertà è uno dei massimi limiti umani, vuol dire che fai come le imprese che sviluppano nuove soluzioni e che per collaudarle devono collaudarle al limite, al polo nord, nel deserto, a seconda che siano una tecnologia, un prodotto, un qualcosa. Ecco, quindi la povertà, adesso capiamoci, deve essere vista anche come una, la lotta alla povertà, con soluzioni inedite, nuove, può ed è diventare un'opportunità per questa città con tutti i problemi che abbiamo sentito elencare, altrimenti non ce la farà. Perché? Perché i poveri assoluti sono 12.000, i poveri relativi sono 15.000, ma questi sono dati sottostimati, perché sono dati Istat, perché poi l'Istat lo sa e ci dice anche: attenti, guarda che nelle povertà converge, nelle città converge la sofferenza, perché è lì che chi non sa dove dormire trova qualcuno che lo accoglie, è lì che se non sai come mangiare trova i cappuccini che ti ospitano a mezzogiorno su lì, eccetera. Quindi la quantità di poveri è molto più alta di quella che è classificata dalle statistiche ufficiali, e poi ci sono gli impoveriti e i rischiosi di diventare poveri solo perché hanno perso il lavoro l'altro ieri e non risultano nelle statistiche. E poi qui l'abbiamo visto dalle analisi, un fattore di povertà molto forte è la fragilità delle famiglie e la povertà di capitale sociale. Uno non ha amici, non ha relazioni, e poi quando è da solo e non ce la fa più non sa a chi chiedere aiuto. Detto questo, in premessa, il Vescovo Claudio il giorno di Sant'Antonio ha detto: e allora, cosa facciamo? E ha dato un mandato a chi lo vuole prendere, alla città, era nel suo cuore, ma non è detto che la città lo prenda sul serio questo mandato. Perché non impostiamo dei cantieri di carità e giustizia? Perché la E in mezzo? Carità e giustizia. Perché chi ha una certa età si è allenato a pensare non dare per carità quello che va dato per giustizia. E qualcuno di una certa età se lo ricorda. Era giusto quel modo di dire, però molti l'hanno interpretato in maniera sbagliata. Possiamo fare a meno della carità, tanto c'è la giustizia. Vai in comune, ci pensa il comune. Qui abbiamo il commissario, non so cosa ne pensa di questo. Quindi il problema è che la carità è la start-up della giustizia. Senza carità non c'è innovazione sociale. senza prendersi cura solidalmente dei problemi, non inventi niente di nuovo. È per questo che Paolo VI, che non era così severo come il nostro amico francese, che abbiamo sentito come dire cosa ci diceva, Paolo VI diceva: attenti, la giustizia è la misura minima della carità, è il minimo sindacale che abbiamo ottenuto lottando contro i problemi umani. Quindi questo è il punto. Allora, la città mette a tema la carità, cioè idee nuove di affrontare in modo solidale, innovativo i problemi, e poi vediamo come trasformare l'ingiustizia nei regolamenti del comune, nella legge regionale, nelle norme statali, nei contratti, negli accordi di azione che vengono fuori dal mondo del non profit insieme con il profit. E abbiamo bisogno molto del profit, lo dirò alla fine perché. Allora, per aprire i cantieri, il 2017 è l'anno di apertura dei cantieri di carità e giustizia nella città, per provare a fare qualcosa di nuovo, non a fare quello che si è sempre fatto, facendo tesoro anche di cantieri già aperti che forse qualcuno non si è accorto che esistono, perché sempre Francesco diceva, nascendo al buio. Le innovazioni, se sono innovazioni, nascono al buio, per fortuna, così possono svilupparsi senza essere soffocate. Allora, noi abbiamo fatto una TAC, una verifica di capacità della città, cioè Padova può farcela ad affrontare sfide di questo tipo? Bene, allora l'abbiamo visto in tutta la rete di realtà religiose e l'abbiamo visto in tutta la rete delle realtà sociali, che si misurano con i limiti umani, sintetizzati sotto l'ombrello povertà. E quindi ne abbiamo trovate una settantina. Certo, dovevano avere certe caratteristiche, non sedicenti buoni, non sedicenti generosi. Fai qualcosa, cosa fai, quanto fai, quanti siete. Ecco, cioè non una ragione sociale depositata da qualche parte, ma una ragione sociale costruita sul campo. 70 realtà, e queste realtà sono anche collaudate, ci sono un 50% opera da almeno 20 anni, c'è chi opera da 50 anni e più. I fratelli si vivono fratelli, cioè i buoni fra di loro collaborano, i generosi fra di loro sono generosi abbastanza. Qualcuno forse pensava male, perché mediamente è difficile collaborare tra chi compete per fare il bene, purtroppo. Però cresceremo, impareremo a fare anche questo. Ma in generale il tasso di collaborazione fra queste realtà è abbastanza elevato. Quindi vuol dire che il potenziale c'è, la città ce la può fare. E soprattutto cosa c'è di molto interessante? È di molto interessante che fanno tante cose. Cioè non sono simili. C'è chi aiuta in emergenza, dà beni alimentari, chi dà vestiario, chi accoglie per... chi ascolta, chi accompagna, chi aiuta per avere delle cure sanitarie, accoglie persone che vengono da lontano perché non andrebbero in un albergo ma forse in una grotta, ma le grotte a Padova non ci sono, e quindi c'è chi li accoglie, eccetera, eccetera. E c'è una rete, perché noi abbiamo chiesto: ma voi come fate a fare il bene visto che da soli non ce la fareste mai? E i cappuccini ci hanno detto: certo, noi abbiamo la mensa tutti i giorni, dove vengono 60, 70, 80 persone che altrimenti non mangerebbero. Però la mensa ce la dà una rete di panifici. Non facciamo noi il pane, non compriamo noi il pane. Quindi c'è una città che è capace nel suo insieme di mettere insieme, tra virgolette, le proprie capacità. Bisogna che qualcuno riesca a fare sintesi. E in questo... Abbiamo anche cercato di quantificare il valore di questa capacità. Ecco, l'abbiamo calcolato al minimo e sono 200.000 euro al mese di capacità di persone in prima fila, non remunerate, che aiutano ad aiutarsi. E questo è molto bello. Poi, certo, questi sono i 2/3 degli aiutanti. L'altro terzo sono persone remunerate che lavorano in frontiera, quindi lotta alla povertà vuol dire anche occupazione per poter aiutare bene le persone. E questo è altrettanto interessante. Sono 20.000 ore al mese che vengono messe in opera e a disposizione. Ecco, il problema dove sta? Perché non posso farla troppo lunga. L'anno prossimo, ai primi di febbraio, faremo un approfondimento proprio con tutti i protagonisti e anche con voi, chi vorrà esserci, per capire come sfruttare questi potenziali. Ma c'è un punto che è questo, che è anche il limite. Oltre il 70%, diciamo 3/4, lavorano per aiutare chi ha bisogno subito. È come se la nostra azienda sanitaria, il direttore generale, destinasse 3/4 delle risorse al pronto soccorso e 1/4 a tutte le cure territoriali, ambulatoriali e all'ospedale e al policlinico. Funzionerebbe il sistema? Beh, parlo a chi se ne intende di fattori produttivi ed è chiarissimo. Quindi, e ne sono consapevoli quelli che operano sul campo. Certo che sono pressati dall'emergenza, però qui abbiamo una start-up, quindi un cantiere di carità e giustizia che è partito qualche anno fa e che ci ha illuminato la strada, il fondo straordinario di solidarietà che vede impegnata insieme con la Fondazione Cariparo, la Camera di Commercio, la Diocesi e tante altre realtà, e loro hanno cercato di vedere come si può, stanno cercando di vedere come si può diminuire quel 75%. E come fare? E il modo migliore per farlo è chiedere agli aiutati di aiutarsi, cioè riconoscergli la dignità di persone, non trasformarli in assistiti, perché questa è la tentazione peggiore che può prendere e limitare chi è in prima linea nella lotta alla povertà. Il potere di chi aiuta e la fragilità e la debolezza di chi è aiutato. Senza l'incontro di dignità e capacità non si va da nessuna parte, si assiste e basta. Quindi questo è il terreno di sfida, il collaudo c'è stato, è in corso e ha fatto vedere alcune cose molto chiare, che se operi così moltiplichi il potenziale, perché c'è il concorso al risultato, hai le risorse che metti a disposizione, uno, l'altro, hai le risorse degli aiutati e soprattutto altri che vedono il rendimento sociale, a quel punto sono disposti a investire, ad aggiungere risorse. Questa è stata, come dire, la traiettoria del fondo, ma potrei citare anche altre cose che ci insegnano, ci illuminano la strada. Ecco, per quanto riguarda, diciamo così, e quindi per andare a sintesi, il principale problema delle persone, provate a indovinare, si chiama lavoro. Siamo qui, nel posto giusto. Non è che chiedono lavori chissà cosa, chiedono di fare qualcosa. Quindi dobbiamo anche reinventare entro certi limiti i modi di intendere il lavoro, perché il futuro del lavoro e il 4.0 eccetera aumenta la produttività, ma non aumenta parallelamente il lavoro. E mentre queste persone devono, ecco, capire come mettersi a disposizione degli altri mentre sono aiutate, perché così affrontano e superano i problemi. Abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo chiesto a degli operatori sfiancati, scoraggiati, di prendere 10 persone, le peggiori che hanno, assistiti cronici, tra virgolette, passatemi questo linguaggio, e quelli su cui nessuno investirebbe. E gli abbiamo detto, guardate, voi siete operatori, i vostri fondamenti etici, credete o non credete, non ci interessa, sono persone. Quindi dovete trovare almeno un punto di positività, di capacità con queste persone. Condividerlo con loro, perdere tempo a chiacchierare con loro, l'ascolto, eccetera, fondamentale. E cosa è successo? Che ad un'ora di ascolto, dialogo, condivisione della possibilità, delle capacità, ha reso possibile 6 ore di aiuto degli aiutati ad altri come loro o peggio di loro. Bellissimo. E una persona fallita, una donna fallita, perché aveva una piccola palestra e poi è fallita, e quindi nessuno gli dava credito e lavoro, in queste volte 6 ore che ha fatto in un ambiente più o meno così, ha visto, ah, che brava che è sta signora, e gli hanno offerto 6 mesi di lavoro. Non l'avrebbe mai avuto da nessuno, perché era una che non aveva credito. Ecco, quindi, a concludere, questo è il futuro prossimo che ci aspetta già da gennaio e febbraio, cioè la partita dei cantieri, che saranno dei veri e propri cantieri, quindi chi è disposto ad ostacolarli lo faccia, perché così mette sotto stress quelli che vogliono essere innovatori, così non si montano la testa e sperimentano tutte le difficoltà dell'innovazione. E cosa serve? E qui vengo agli imprenditori. E qui serve la logistica delle capacità. Guardate che i buoni e i solidali non sono capaci di fare logistica delle capacità, sono bravi nel leggere i bisogni. Sono bravi nel vedere i limiti, le incapacità, fanno queste analisi, cioè fanno anatomia del problema, come farebbe un medico, come fare. No, non si vince così. Allora c'è bisogno di chi vede invece il potenziale di investimento, perché se noi chiedessimo a tutti gli aiutati di aiutare, chi li gestirebbe? Come li gestiamo? Quali imprese sono disposte ad accogliere persone, eccetera, o cose del genere. E allora, questo vuol dire passare dalla logica del costo a quella dell'investimento. Chi è allenato a farlo, lo sa fare. Chi non è allenato, fa fatica. Ecco, quindi chiedo aiuto in questo senso a chi vorrà stare nell'avvio dei cantieri, ad aiutare quelli che sono ingaggiati in prima linea a cambiare testa, a cambiare mentalità, così quel 75% di pronto intervento un po' alla volta si riduce gradualmente e noi andremo a verificare il rendimento, l'impatto sociale di quello che si andrà ad ottenere. In conclusione cito 2 persone a cui è stato intitolato un premio, Teologia della Carità. Non era mai stato dato un premio di studio, con borse di studio sulla teologia della carità. Sono 2 preti della diocesi di Padova. Il premio è stato attivato dalla conferenza episcopale, dalle facoltà teologiche, dalla Caritas italiana, un pochino per i pochi mezzi che ha dalla Fondazione Zancan, e questi 2 preti si chiamano uno Don Giovanni Nervo e uno Don Giuseppe Pasini. Ecco, la città sa esprimere persone che sono a servizio di tutta come dire, la società italiana, e quindi guardiamo al futuro e guardiamo con fiducia. Grazie. Dalla voce di Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, che ha presentato la prima parte dei risultati del progetto Cantieri di Carità e Giustizia, le conclusioni finali che dovevano essere affidate in quella mattina prima di dicembre al Vescovo, Monsignor Claudio Cipolla, colpito però da un attacco febbrile la mattinata stessa e sostituito nell'intervento dal Vicario Episcopale per i rapporti con il territorio, Don Marco Cagol. Ecco, sono già state dette tantissime cose, io ho qui un po' gli appunti che si era preparato lui, ne recupero solo alcune cose per non abusare della vostra pazienza.

di contribuire al contrasto alla povertà e all'inclusione sociale, e di farlo, ecco, nelle modalità che sono anche state un po' anticipate da Tiziano Vecchiato, che poi riproporremo in maniera più organica in un appuntamento agli inizi di febbraio. Ecco, io con questo, a nome, con questi due, insomma, pensieri, ecco, che ribadiscono un po' l'intento anche di questo progetto e anche la, diciamo, il piacere che questo sia entrato e ci sia incrociato con il progetto Padova 4.0, io rinnovo a tutti voi, tanto al Presidente della Camera di Commercio Zilio, che ha, come dire, ci ha accolto qui stamattina e ha voluto proprio mettere dentro questo capitolo, ecco, in questo percorso anche della Camera di Commercio di Padova 4.0. Ringrazio il Presidente dell'UCID che da anni, insomma, ci aiuta a comporre anche questa tessitura. Ringrazio tutte le autorità presenti e ciascuno di voi, e anche se ce li ha fatti prima in video, rinnovo veramente a tutti quanti voi gli auguri di un Natale sereno e di un anno nuovo un po' migliore, ecco, di quello che abbiamo vissuto fino adesso, proprio nutriti, credo, anche dalla speranza che ci viene, dalla consapevolezza e, per chi ha fede, dalla certezza che comunque è sempre Dio a guidare la storia. Oggi nella messa si leggono queste parole del Vangelo di Luca, e mi permettete di concludere così: l'anima mia magnifica il Signore, perché ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Grazie. La voce di Don Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con il territorio, intervenuto in supplenza del vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, al incontro con le categorie economiche e la diocesi di Padova, promosso dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con l'UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, l'incontro che si è svolto lo scorso 22 di dicembre. Ringrazio la Camera di Commercio per il supporto logistico, per la registrazione che abbiamo effettuato e vi abbiamo riproposto in questa serata. E di Daici in regia, Mirko Cavallini in studio, a voi tutti buona serata e buon ascolto con Blu Radio Veneto.